Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buona serata da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea. Questa settimana parliamo anche noi di coronavirus, un'attenzione che arriva dalla Cina per queste notizie che ci preoccupano e che vengono diffuse dai mezzi di informazione internazionali e anche italiane. Notizie non rassicuranti, l'allerta è alta, ma altrettanto sensato è anche intervenire per bloccare quelle notizie non vere che provocano danni ingenti a livello economico e lavorativo, oltre che una psicosi collettiva. Ovviamente noi siamo molto attenti alle comunità italiane di origini straniere, in questo caso la comunità cinese che è molto vivace in Italia, in particolare in alcuni capoluoghi, e io sono in collegamento con Francesco Wu, referente di Confcommercio a Milano per l'imprenditoria straniera e presidente onorario dell'Unione Imprenditori Italia-Cina. Benvenuto, buonasera. Buonasera a tutti gli amici ascoltatori. Francesco, lei, come dicevamo, è un italiano di origine cinese. Di dove esattamente? Di che zona della Cina? Ma io vengo dalla zona Zhejiang, attorno a Hangzhou. Non è l'epicentro, però anche ormai in quella zona lì, dovuto diciamo ai spostamenti interni, poiché vengo da una zona ad alta diciamo presenza di imprenditori che si muovono in ambito del territorio cinese, anche quella zona è comunque abbastanza colpita in questo momento. Ovvio non come Wuhan, non ci sono migliaia e migliaia di casi, però vengo da una zona comunque che ha diverse centinaia di casi. Lei è arrivato a Milano che aveva intorno agli 8 anni e è cresciuto come imprenditore a Milano e al punto appunto che dicevamo prima rappresenta l'imprenditoria straniera per Confcommercio a Milano. E c'è in questi giorni un'attenzione spropositata anche dei mezzi di comunicazione nei confronti del coronavirus e degli effetti che può avere, e questo sta anche danneggiando il commercio, no? Sì, allora, comunità cinese, gli imprenditori di origine cinese, ma tutti gli asiatici in generale, stanno affrontando un periodo veramente di vacche magre, se così si possiamo dire. Di quanto è il calo per i ristoranti, per i commercianti? Durante la settimana c'è un calo fino al 70-80%, un calo assurdo, e nel fine settimana qualcosa, diciamo, il calo può essere del 30-40%. Sono comunque numeri drammatici. Sono danni all'economia italiana innanzitutto, perché se gli imprenditori diciamo di origine cinese sono penalizzati, la maggior parte diciamo delle materie prime dei ristoranti soprattutto vengono comprati anche dei bar stessi, no? Il caffè, immagini caffè e latte, no? Sono materie prime che si comprano sul territorio, il fresco soprattutto, e quindi si può stimare il danno economico in diciamo milioni. Una stima diciamo sommaria potrebbe essere nell'area di Milano potrebbe essere di 500 euro per attività. Nell'ipotesi di 500 euro di perdita per attività commerciale, il danno a Milano e aree metropolitane si aggira a 4 milioni di euro al giorno. A livello Italia le cifre bisogna moltiplicare questa cifra qua quasi per 10, no? Francesco, la comunità cinese a Milano è, come dicevamo prima, una comunità molto solida. Tra l'altro c'è un'area di Milano dove ci sono molte attività cinesi. È la prima comunità in Italia oppure ce ne sono altre? Come è distribuita la comunità cinese in Italia? Prato sappiamo che è un'altra area, no? Dove sì, sono molto presenti. Ufficialmente Milano è la zona dove c'è diciamo la presenza cinese maggiore. Dopo con circa 30.000 presenze, dopo arriva Prato 5.000, poi Roma con 15.000. Ormai però nell'area milanese c'è la comunità cinese più radicata in Italia, perché siamo qua da 100 anni e abbiamo lavorato palmo a palmo con diciamo con i nostri concittadini milanesi, e questa crisi che ci ha colpito così all'improvviso sembra assurda, ma è come perdere per noi, no? Quando perdi tutti i clienti è come ad un certo punto in un rapporto con un amico ti senti tradito. Viene pochissima gente, quasi più di metà che non vengono. Non lo so che cosa hanno paura, veramente per me non deve avere paura, perché il nostro cibo, il nostro materia sono tutti di qua, fornitori tutti italiani. A me non febbre, non tosse. Paura non è paura. Cina è grande, se c'è che cosa loro subito è fermato, guarito. Noi viviamo qui da diversi anni, da 20 anni che siamo residenti. I clienti di zona comunque vengono ancora a mangiare, ovvio. Abbiamo sentito un calo abbastanza notevole. È una fortuna che io a casa qua è vicino, non deve prendere autobus, non deve girare, allora non riesce a capitare questa gente. Però hanno detto che l'razzismo ci sta. La paura è alta, ma cerchiamo di capire che è immotivata questa paura nei confronti del cibo cinese, no? La trasmissione non avviene per cibo, no? E abbiamo scoperto che in realtà la paura non è cibo, ma la paura è il contatto fisico con un orientale. Io dico, va bene, è un po' di fobia, un po' di paura, la paura è umana, no? Però bisogna reagire in modo razionale alla paura. E la razionalità ci dice che comunque sia fuori dalla Cina non c'è nessun rischio di epidemia, ok? C'è una letalità veramente bassa, poi la probabilità di incontrare una persona di origine cinese infetta e che a sua volta si possa infettare sono veramente probabilità bassissime, no? Lei ha notato nei suoi confronti un atteggiamento diverso da parte degli italiani o nei confronti di altre persone vicine a lei di origini cinesi? Passeggiando per strada un pochettino di diffidenza ogni tanto c'è, soprattutto diciamo il primo periodo. Poi invece effettivamente nei confronti anche di persone che io conosco personalmente, anche persone care, sono state discriminate. Quindi ad esempio questo... ci fa degli esempi pratici? Ma una mia amica ha fatto fatica a prendere il taxi, ha dovuto minacciare il taxista di denunciarlo per mancato servizio pubblico. Un'altra amica è andata a Napoli per qualche giorno in vacanza e dei bambini le hanno lanciato dei sassolini, dei sassi, ragazzini di 15 anni, no? Cinese coronavirus, lancio dei sassolini. Il cuoco di un mio amico è stato schernito dai ragazzini qua a Milano a Porta Vittoria con dei gestacci, no? Lui era una persona che, come dire, è sempre stato ben accolto a Milano, si sentiva ben voluto, e questi episodi lasceranno un po' dei strascichi a livello, secondo me, di rapporti. Poi tante persone magari poi chiuderanno un occhio, dice vabbè, è stato un periodo così, altri poi se lo legano al dito perché dice cavolo, no? Non sono stato trattato come un appestato, solo perché ho dei lineamenti diversi, anche perché poi è vero che ci sono stati tanti persone di origine cinese che hanno viaggiato in Cina, ma ci sono anche tanti italiani che hanno viaggiato avanti e indietro dalla Cina, no? Non è che adesso noi dobbiamo avere paura di ogni italiano che incontriamo. Poi ci sono cinesi che effettivamente non vanno in Cina da 6 mesi oppure da anni, anche i bambini cinesi non è che in questo periodo di scuola stanno tornando dalla Cina, quindi anche tutta quella, diciamo, quella richiesta, quella proposta di stare attento ai bambini cinesi, oppure la fobia delle mamme verso i bambini cinesi è alquanto in casa. Anche da questo punto di vista ci sono degli episodi che le sono stati riportati? Proprio l'altro giorno qua in Sarpi raccontavano di una mamma che aveva organizzato la festa di compleanno per suo figlio e diciamo gli amichetti di scuola uno a uno si sono defilati per questo problema del coronavirus, cosa che in passato non succedeva mai. Quindi ci sono cose che poi ci sono bambini che non se ne accorgono, altri che se ne accorgono di più. Secondo me la maggior parte sono persone che hanno paura. E poi invece c'è un'altra parte che approfitta di questi momenti per denigrare, per far uscire, diciamo, il proprio odio verso la comunità cinese. Ci sono anche queste persone, non dimentichiamolo, no? Grazie Francesco Wu, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. Ci fermiamo brevemente e poi, sempre con la comunità cinese in Italia, andiamo a Prato. I figli di Enea. E siamo ancora con voi, con i figli di Enea, per questa puntata che dedichiamo alla comunità cinese in Italia, agli italiani di origine cinese e a questa psicosi collettiva del coronavirus, con tutti i danni economici che porta con sé, ma anche i danni relativi ai rapporti con la comunità cinese, che è molto grande in Italia. Adesso siamo in collegamento con Marco Wong, che è un consigliere comunale a Prato, un imprenditore italiano nato in Italia ma di origini cinese. Allora Marco Wong, qual è la situazione a Prato in questo momento? Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Sicuramente le implicazioni alla cosiddetta economia etnica, cioè per esempio ai ristoranti cinesi piuttosto che ai parrucchieri o estetisti con titolari cinesi. Insomma, il lavoro è visibilmente calato, la gente che va in giro per le strade è molta di meno. E questo qui è forse un qualche cosa che differenzia per esempio Prato da Milano, perché se noi vediamo Paolo Sarpi è un quartiere che è diventato negli ultimi anni anche un pochino trendy e che non ha come sola clientela la comunità cinese, però insomma tanti italiani vanno lì. Invece nel caso per esempio del macro lotto zero, che è un po' la Chinatown pratese, forse l'incidenza della clientela cinese è molto maggiore e lì c'è un fenomeno insomma abbastanza peculiare a Prato, che è il fatto che per esempio tanti cinesi che sono di ritorno dalla Cina praticano una specie di autoisolamento, che è una forma così di rispetto e di precauzione nei confronti di altri cinesi. Solo che questo qui poi, la notizia che la comunità cinese di Prato aveva pensato appunto per le persone che ritornano dalla Cina un luogo dove praticare l'autoisolamento, insomma, è stato interpretato in un primo momento come un motivo di allarme più che di tranquillità. Quindi insomma i cinesi di Prato che sono appena tornati dalla Cina si sono messi in quarantena da soli per un senso di responsabilità, e questo a volte è stato interpretato come invece un allarme perché si teme che siano contagiosi. Non è così, vogliamo dirlo chiaramente? Sì. Però registriamo, e vorrei che me lo dicesse anche lei, strade semideserte nell'area di Chinatown, via Pistoiese, via Filzi, l'area di Chinatown di Prato, cioè le fabbriche sono ancora chiuse, il quadrato industriale è un po' deserto, è così? Sì, perché appunto magari quello che succede è che delle persone che lavorano nelle fabbriche così sono tornate al lavoro, oppure per esempio quelli che lavorano dei prodotti che vengono dalla Cina per l'industria dell'abbigliamento hanno finito le scorte, non so, mi riferisco ad alcuni accessori come i bottoni per esempio, oppure alcuni tipi di filato, e questo qui fa sì che insomma in qualche punto la filiera si interrompa. Quindi c'è anche un problema come quello che segnalava Fiat Chrysler di approvvigionamento dei componenti per lavorare. Sì, esattamente, un po' perché appunto le vacanze del Capodanno lunare si sono protratte proprio per su indicazione del governo cinese, un po' perché magari dei fornitori hanno dei problemi di logistica interna, insomma per svariati motivi insomma la filiera sta un po' soffrendo. E poi insomma ci sono anche delle implicazioni indirette, per cui per esempio chiaramente in una situazione del genere tutta l'industria del lusso made in Italy che andava in Cina per quella classe media che si sta formando in Cina, insomma magari si è fermato quello, e si è fermato anche un po' tutto l'indotto e tutto tutte le aziende della filiera, per cui per esempio i tessuti di alta gamma che molto spesso sono fabbricati a Prato possono avere dei problemi da questo punto di vista. Allora, diciamo che la città di Prato, che conta poco meno di 200.000 abitanti, ha una popolazione di origine cinese di circa 25.000 abitanti, 6.000 aziende, 4.000 delle quali dedicate al pronto moda. Ci possono essere ripercussioni pesanti per l'economia di Prato e italiana? Beh sì, perché se noi vediamo, facciamo un paragone con quanto successe con la SARS 18 anni fa, l'economia cinese allora pesava il 9% dell'economia mondiale, mentre adesso è circa il 19%. Quindi questo vuol dire che qualche cosa che colpisce la Cina direttamente o indirettamente colpisce poi tutto il mondo, perché appunto la Cina è un grande paese esportatore, ma appunto è anche importatore. Lei tra l'altro è nato a Bologna, è cresciuto in Italia, è italianissimo. Lei è rappresentante in questo momento. Ci sono delle diffidenze, delle forme di razzismo, di pregiudizio nei confronti di una persona italiana come lei, ma con un aspetto cinese? Purtroppo sì, se ne sono registrati svariati di episodi, e anche per questo motivo, sempre a Prato è stato costituito un osservatorio per registrare tutti i vari episodi e eventualmente valutare da farsi sia in termini magari di comunicazione che nei casi più gravi anche di denuncia. Da questo punto di vista, nella comunità per esempio è stata molto apprezzata la visita del presidente Mattarella, che è andato nella scuola più multietnica all'Esquilino, quindi nel quartiere dove risiedono tanti cinesi, proprio come segno di solidarietà. E questo qui penso che sia un segnale molto importante, perché in qualche modo fa da riferimento morale. La Roma che schiava di Roma e di Orangeo. Bravissimi, vedi questi due cartelli? Questo è molto bello. Questi li abbiamo preparati per lei, è un omaggio che vogliamo che lei porti con sé. E ha fatto bene a ricordare il gesto di Mattarella. Mi racconta un episodio accaduto a lei o a qualcuno vicino a lei di xenofobia, di psicosi? Mia moglie mi raccontava che, andando a fare la spesa al supermercato, a un certo punto si è accorta che stranamente, pur essendoci fila in tutte le casse, dietro di lei non c'era nessuno. Oppure nei casi più gravi, appunto, per esempio circolava un audio di uno che diceva di essere a Wuhan, che era una città con milizie armate che sparavano a vista, e però nonostante lui tra l'altro non pronunciasse i nomi in cinese in modo improbabile, asseriva di essere stato nel laboratorio in cui era stato sviluppato il coronavirus e avere visto il paziente zero. No, in una situazione normale questa storia, che è più una sceneggiatura da film horror, una persona così l'avrebbe giudicata, però il fatto stesso che sia diventata virale ci testimonia il fatto che purtroppo è un qualche cosa che cortocircuita le capacità di critica, così come per esempio un sito animalista che aveva postato un video rieditato di un mercato di animali in Indonesia, è stato rieditato cancellando l'indicazione del luogo geografico e facendolo passare come un mercato in Cina, e poi su questo ha generato tantissimi post di proprio odio razziale, no? Con auguri di morte a tutta la razza cinese e così via. E questo qui, diciamo, purtroppo appunto la paura del virus agisce un po' da alibi, e il fatto che sui social magari insomma si pensa di essere dietro la tastiera un po' non identificabili contribuisce a queste manifestazioni di odio, che però hanno un costo sociale elevato, sia in termini di colpire magari delle persone, la sensibilità di persone come tutte le altre, sia poi purtroppo anche in termini di danni al turismo. Per esempio, c'era un altro video ancora in cui si vede una coppia di turisti che passeggia sul Lungarno di Firenze, che viene insultata pesantemente. Poi purtroppo queste notizie diventano virali e insomma chiaramente potrebbe danneggiare, non so, il turismo di tutti coloro che, una volta passato l'allarme del virus, magari potrebbero dire: ma insomma, perché devo andare a visitare un paese in cui rischio di essere insultato per strada? Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto di questa puntata dei Figli di Enea. Ci ritroviamo sempre sabato prossimo sulle frequenze di Radio 24 con altre storie di italiani di origine straniera. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao.